Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di Irene Zerbini. E un saluto speciale a chi ci ascolta dal lavoro. Buona giornata da Irene Zerbini, 8 agosto 2014. L'abbiamo sentito, il traffico è ancora scorrevole, ma come funziona quest'anno? C'è chi dice sarà un weekend da bollino rosso, no, nero. C'è chi denuncia è sparito l'esodo ed è colpa della crisi. Ieri intanto caos alla stazione centrale, l'ultimo disagio per chi utilizza il trasporto pubblico, che dovrebbe essere poi il trasporto di domani, anche per ragioni ambientali. Chi viaggia, circa due terzi dei residenti in un posto, di solito lavora in un altro. Questo ce l'ha precisato l'Istat. Ci si muove soprattutto per motivi di lavoro e questa continua a esserci questa necessità, nonostante in questo mese si parli sempre di vacanzieri. I trasporti all'interno della stessa provincia ammontano al 36,1%, per trasporti si intende movimenti sul trasporto pubblico. Insomma, in questi anni si sono allungati sensibilmente i tempi legati alla mobilità per raggiungere il posto di lavoro o per raggiungere il posto dove si studia. Eppure, sapete quanti italiani utilizzano un mezzo pubblico per spostarsi? Secondo l'Istat, 13 su 100. Sono cifre che decretano una sfiducia verso il trasporto pubblico. Perché l'auto è destinata a rimanere per gli italiani il mezzo più affidabile, anche dal punto di vista ambientale? Questa tendenza doveva essere invertita a questo punto. Comunque, partendo dalla caos alla stazione centrale, dal tilt di quel sistema che è stato ripristinato comunque dopo un'ora, cioè che ci ha restituito ancora una volta l'incubo che qualcosa non funzioni, vogliamo sapere da voi, al di là di numeri e statistiche, come si sta muovendo l'Italia delle vacanze. Per le vostre telefonate potete cominciare a chiamare all'800 24 00 24. Chiederemo a voi, infatti, dopo le 9 però, quali sono i percorsi, gli itinerari, le destinazioni da privilegiare per risparmiare e soprattutto se è vero che solo il 30% degli italiani quest'anno si godrà una vacanza. Prima vi racconteremo una storia bellissima, la storia di una nonna impegnata da anni alla ricerca dei bambini, ormai uomini, che la dittatura militare ha sequestrato ai genitori. Spesso sono stati torturati e uccisi per darli in adozione. E oggi, a 83 anni, Estela De Carlotto, questa donna, ha ritrovato il nipote. Era figlio della sua Laura, aveva 22 anni Laura, ed era stato tolto questo bambino alla madre 5 ore dopo il parto. La ragazza era morta per le torture ed era stata poi consegnata alla famiglia. Ma del bambino, che si chiama Guido e che ora ha riabbracciato la donna, non c'era più nessuna traccia. Con noi per raccontare questa storia che ha commosso perfino il pontefice ci sarà Carlos Cermiak, cioè il ministro plenipotenziario per la politica, la cooperazione e i diritti umani dell'Argentina in Italia. Andremo anche in Iraq, cosa sta succedendo in Iraq? Oggi i giornali di tutto il mondo aprono con le foto dei cristiani perseguitati, costretti a lasciare in massa le proprie case, temono di essere spazzati via materialmente, fisicamente, così come è stato spazzato via l'intreccio di religioni. Erano comunque zone in cui convivevano le religioni una volta. Oggi i cristiani vengono cacciati dai loro villaggi, mentre gli Stati Uniti pensano di bombardare. Ci sarà il via alla missione definita umanitaria degli Stati Uniti. E chi sono questi cristiani di cui non si parla mai? Quanti sono e come vivono in Iraq? E quali sono le loro prospettive per il futuro? Un tema che affronteremo alle 8:30 insieme al missionario e giornalista italiano che appartiene alla congregazione dei missionari comboniani, Giulio Albanese. Ora andiamo a trovare un'altra persona, un altro corrispondente che racconta l'Italia al mondo, al suo mondo. Visti da fuori. Yasu Dimitri. Calisera. Dimitri Deliolanes è il corrispondente greco della radiotelevisione ellenica. Ci ritroviamo, sei stato nostro ospite qualche anno fa proprio in questa rubrica. Da quanti anni ormai vivi in Italia? Decenni. Decenni, non sai nemmeno quantificarli, non riesci a darci un numero. Sì, ho bisogno di un po' di tempo. Senti, noi di solito conoscevamo fino a qualche tempo fa, fino al 2008, la Grecia così superficialmente come destinazione delle vacanze, zona molto bella, e poi di colpo il tuo paese è arrivato a guadagnarsi tanta attenzione internazionale per la pesantissima crisi economica e per i sacrifici che hanno dovuto e che continuano a sopportare i greci. Eppure i greci sono andati a votare per le elezioni europee e hanno votato in larghissima maggioranza partiti europeisti. Dunque l'euro gode di buona salute in Grecia? Sì, l'euro gode di un ottimo consenso, anche l'Unione Europea, malgrado la sua pessima gestione della commissione precedente, quella uscente, per capirci. Sì, il buon sentimento antieuropeo non è molto diffuso, no. Lo dissi allora e lo confermo anche adesso. La Grecia è un paese europeista. E continua ad esserlo, nonostante la situazione economica, politica interna. Semmai tu ti sei dedicato, hai lanciato un allarme sulla Grecia nazista, questo è il titolo di un tuo libro, Alba Dorata, la Grecia nazista che minaccia l'Europa. E sei ancora di questo avviso? Beh, sicuramente, abbiamo visto alle elezioni europee che c'è stato un aumento pericolosissimo, allarmantissimo del movimento nazista di Alba Dorata, che è cresciuto dal 7 è arrivato al 10%, malgrado le rivelazioni, malgrado l'azione giudiziaria sul carattere terroristico, criminale di questo gruppo. Ma è un nazionalismo che si basa su teorie del sangue e della razza, è un nazionalismo di tipo culturale? Io contesto il loro nazionalismo, loro si definiscono nazionalisti, in verità sono dei nazisti veri, cioè non hanno niente a che vedere con il nazionalismo greco come si è storicamente formato e configurato. Loro sono dei dogmatici nazionalsocialisti hitleriani che hanno preso di peso le teorie appunto della razza, del sangue, che erano di gran moda in Germania negli anni 30 e le stanno riproponendo nel 2014 in Grecia, un paese mediterraneo, cioè assolutamente l'assurdo proprio, l'irrazionalità allo stato puro. Però c'è gente giustamente molto arrabbiata per la situazione politica che li vota come forma di protesta, perché non vuole spostarsi su altri partiti di sinistra, perché la sua conformazione è conservatrice, eccetera, eccetera. Quindi la crisi, lo strapotere della finanza denunciati dagli opinionisti greci, un po' ha favorito naturalmente questa crescita di ideologie estremiste antidemocratiche. Avevano il 26% l'estate scorsa, oggi possiamo parlare di numeri analoghi? Chi il 26%? Stiamo parlando del consenso relativo a Alba Dorata? No. Avevano alle elezioni del 2012 avevano il 7%, alle elezioni europee sono arrivate al 10%. Quindi non si è mai raggiunto questa cifra che abbiamo letto su qualche articolo, insomma, mi sembra allarmante, sì, ma non uno su quattro dei greci. Beh, certo, però avere il partito nazionalsocialista hitleriano più grande d'Europa dentro il Parlamento greco e adesso anche al Parlamento europeo sicuramente non è che fa onore al mio paese, insomma. E ora parliamo anche del rapporto con il nostro paese. Cosa vedono, cosa ti chiedono i tuoi capi servizio, diciamo così, capi redattori esteri dall'Italia ultimamente? No, beh, i capi redattori non chiedono niente perché è una situazione un po' complicata nell'informazione greca. Ci vorrebbe una trasmissione dedicata appositamente per spiegarti cosa succede. Dico però quello che mi chiedono i miei amici, la gente qui quando sono venuto in Grecia, che mi chiedono tuttora. Tutti mi chiedono che cosa vuole fare Matteo Renzi. Questa è la domanda costante di tutti quanti. Lo conoscono per nome e cognome, cioè ci seguono con estrema attenzione i greci. Sì, conoscono Matteo Renzi, sanno che ha la stessa età del leader della sinistra greca di Alexis Tsipras, lo conoscono di faccia, l'hanno visto in televisione, non hanno capito bene che cosa vuole fare, francamente. Questa è la domanda che chiedono a me. E nei tuoi pezzi cosa hai raccontato? Io cerco di far spiegare questa cosa del suo privilegiare la riforma del sistema politico in maniera da aumentare, far crescere la credibilità dell'Italia in Europa, in modo da agevolarla anche in termini economici, la strategia renziana, però non trovo molta credibilità, mi guardano un po' così come per dire ma insomma ci sta raccontando delle cose un po' fuori dal mondo, insomma. Cioè, la domanda che lo pongono è: lui è in favore dell'austerità o contro l'austerità? Perché qui il sistema politico funziona così: o si è in favore o si è contro. Renzi, c'è uno spartiacque molto netto, esatto, naturalmente, esatto. Anche per la popolazione greca. Adesso abbiamo ricevuto anche messaggi dai nostri ascoltatori mentre tu parli, che inneggiano ad Alba Dorata, sono i soliti messaggi non firmati. 349-238-6666. Questo è un po' l'effetto di quello che tu ci hai raccontato finora su questo rischio. Perché chiamarlo rischio, ci chiedono addirittura. Quindi vorremmo capire da te, Dimitri, a parte le domande che ti trovi a rispondere sulle reali intenzioni, il disegno di Matteo Renzi e di questi 1000 giorni in Italia, al di là della politica, cosa vogliono sapere i tuoi amici, visto che evidentemente caporedattore e capiservizio non ti chiedono nulla dall'Italia, non ti commissionano pezzi, cosa vogliono sapere? Quali sono gli aspetti che più incuriosiscono o sono difficili da decifrare per un greco? Allora, adesso ti rispondo subito, però prima chiariamo questa cosa giornalistica. Tu sai che la televisione pubblica è stata sciolta d'imperio l'anno scorso. Si era fatta una nuova, la quale stenta a partire, questo è il discorso. Per cui, insomma, c'è una situazione organizzativa un pochettino caotica, per questo non è difficile. A volte è difficile anche organizzare i corrispondenti dall'estero. Tu, da giornalista, capisci che cosa voglio dire. Quindi immagino tu proponga e ogni tanto riesci a passare un pezzo, un sì e tre no, insomma, le cose dovute non a censura ma proprio a problematiche logistiche. Tornando alla domanda, qual è la cosa più strana per un greco di noi italiani? No, i greci hanno un grandissimo interesse, grandissima simpatia, si sentono molto vicini, c'è anche un po' di invidia per sistema di vita, per l'estetica, molto per l'estetica, per le condizioni in cui si è riusciti a preservare le città storiche, i monumenti. Noi invece spesso non ci siamo riusciti, basta vedere Atene come ridotta. Quindi seguono con grandissimo interesse, e le domande si aggirano tutte sul non più la politica, ma subito dopo viene l'economia: come stanno gli italiani, come va la crisi là, com'è la disoccupazione. E allora bisogna spiegare che anche in Italia non è che scherza, anche l'Italia ha le sue difficoltà, bisogna spiegare le due Italie, quella centro-nord e quella del centro-sud, che hanno economie differenti, molto differenti, crescita differente, eccetera, eccetera. Comunque sì, l'interesse è prima politico, poi economico, e poi viene tutto il resto, se uno visita l'Italia dove bisogna andare, dove ci si trova meglio, cosa si mangia, cosa si può vedere, gli acquisti, no? Quelli che hanno un po' di soldini da parte ancora. Lo stile di vita, insomma, al centro dell'attenzione dei greci, che intendono a volte fare anche una puntatina in Italia. E tu, nella tua personalissima opinione, a parte le solite, lo sappiamo, città d'arte, gli itinerari più conosciuti, qual è la chicca, il gioiello che tu consigli? Ma io, a chi vuole visitare l'Italia con la macchina, e di solito scendono ad Ancona, io suggerisco un bel giro Marche, Umbria, Toscana, proprio a vedere i centri minori, Todi, che ne so, Urbino, Pesaro, l'entroterra. Esatto, esatto. Devo dire che gli amici che mi hanno nel tempo hanno seguito il mio consiglio sono usciti tutti molto molto entusiasti, perché sono cose che veramente in Grecia purtroppo non si possono più vedere. E questo è il consiglio che io do sempre a chi viene in macchina. Grazie Dimitri Degliolanes, il corrispondente per la radiotelevisione ellenica in Italia, oggi è stato con noi per la rubrica Visti da fuori. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Otto e 32, e va detto, sono arrivati sms di altro tenore anche sulla Grecia. Il numero per partecipare alle nostre discussioni 349-238-6666 via sms. Il risultato del malcontento della gente, ci scrive qualcuno commentando Alba Dorata, un altro così nascono le dittature, Francesco Retta da Napoli, e poi estrema simpatia di persone che hanno lavorato e vissuto in Grecia a lungo. C'è anche chi associa Alba Dorata a tutte le associazioni xenofobe che si stanno facendo strada non solo in Italia ma nel resto d'Europa, e questo è un messaggio che ci arriva da Salerno. 349-238-6666, abbiamo detto, per i vostri sms. Parleremo nel corso della giornata dei tempi legati alla mobilità, non solo per le vacanze, di questo si discute in questi giorni, ma anche per andare a lavorare o a studiare. L'85% delle persone è costretta a spostarsi e solo 13 su 100 in Italia utilizzano un mezzo di trasporto pubblico. Perché l'auto è destinata a rimanere per gli italiani il mezzo più affidabile? E poi qual è la verità su questo esodo che dovrebbe aprirsi domani? C'è? Ci sarà? Ci sono le vacanze per gli italiani? Nessuno ci va? Qual è la vostra esperienza? Quali sono i costi che avete registrato anche sul posto, se è stata pubblicata ormai la classifica anche delle località più care? Forse potete suggerire degli itinerari alternativi a chi vuole riposare un paio di giorni. Vi racconteremo una storia bellissima tra poco, perché parleremo di una nonna che ha potuto riabbracciare il nipote. A 83 anni, Estela De Carlotto ha ritrovato il figlio di sua figlia Laura, che era stato sequestrato alla madre, la ragazza morta per le torture 5 ore dopo il parto. Naturalmente il contesto è quello della dittatura militare in Argentina. Il nostro ospite sarà Carlos Cerniak, cioè il ministro plenipotenziario per la politica, la cooperazione e i diritti umani dell'Argentina in Italia, ed è già molto indicativo che questo sia l'unico paese, ci risulta, che abbia un ministero all'estero, nelle ambasciate, per la cooperazione e i diritti umani. Prima però una pagina allarmante, quella che stiamo per aprire. Ve l'abbiamo annunciato, avete sentito svegliandovi questa mattina quello che è successo questa notte, anche un vertice d'emergenza tra le Nazioni Unite che fanno parte del Consiglio di Sicurezza per valutare la situazione in Iraq. Cosa sta succedendo e chi sono i cristiani in Iraq? Padre Giulio Albanese, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lui, come vi ho detto, è un giornalista e missionario, appartiene alla congregazione dei missionari comboniani, il nostro ospite, e collabora con varie testate giornalistiche, soprattutto per i temi legati all'Africa e al sud del mondo. E tra queste testate c'è il giornale Radio Rai, Radio Vaticana, Avvenire, Vita. Insomma, un osservatorio piuttosto vasto il suo, padre Giulio. Quello che sta succedendo in Iraq, visto che è quasi sconosciuta da noi la situazione dei cristiani in Iraq, chi sono? Quanti sono? Allora, diciamo subito che quello che sta avvenendo in queste ore davvero, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, grida vendetta al cospetto di Dio da tutti i punti di vista. Non fosse altro perché davvero c'è tanta umanità dolente che viene sacrificata sull'altare dell'egoismo umano. E certamente a pagare il prezzo più alto in questo momento sono le minoranze religiose, e in primis i cristiani che da quelle parti sono un piccolo gregge, anche se poi si tratta della presenza, direi, religiosa più significativa dal punto storico, nel senso che sono venuti prima, storicamente parlando, intendo dire, degli stessi islamici, degli stessi musulmani. Pensiamo per esempio, non so, alla Chiesa Caldea, ma pensiamo anche a tutte quelle comunità cristiane che per certi versi hanno consolidato la loro presenza proprio nei primi secoli del cristianesimo. Però un aspetto a mio avviso che va sottolineato con forza. Possiamo dire più o meno 2000 anni. Sì, 2000 anni certamente, però c'è da considerare anche un altro aspetto, che qui a pagare il prezzo più alto non sono solo i cristiani, ma vi sono anche altre minoranze religiose. Mi vengono in mente per esempio i cosiddetti Yazidi. Gli Yazidi sono dalle parti di Mosul, sono circa 500.000, quindi una presenza abbastanza significativa. Ed è davvero in questo caso. Che setta religiosa sono gli Yazidi? È una comunità religiosa in cui sono confluiti elementi del giudaismo, del cabalismo, del misticismo cristiano, del misticismo islamico. È un qualcosa di estremamente complesso. La parola Yazid significa angelo. E questi poveretti in questo momento sono nel mirino dei fanatici di questo movimento ISIS che sta seminando davvero morte e distruzione. E questo è davvero qualcosa di aberrante. E se me lo consente vorrei proprio ricordare che i vescovi italiani hanno indetto per il 15 agosto una giornata particolare di preghiera, di solidarietà, proprio a Ferragosto, nella solennità dell'Assunta, proprio per ricordare queste minoranze religiose, manifestare vicinanza e sostegno alle comunità cristiane e non solo cristiane che sono minacciate da questa follia jihadista. E questo è davvero un fenomeno aberrante. Io credo che dovremmo in queste circostanze davvero manifestare l'onestà intellettuale di mettere da parte, come dire, calcoli politici, alchimie che in una maniera o nell'altra vorrebbero in una maniera o nell'altra legittimare questo o quello schieramento. Qui ci troviamo di fronte a qualche cosa di senza precedenti. Io credo che l'unico paragone che potremmo tentare di fare è quello di paragonare la follia di questi pazzi criminali al nazismo, alla ferocia del nazismo, quando furono sterminati milioni di ebrei. E quello che colpisce, e direi che questo proprio è il dato inquietante, è la latitanza della comunità internazionale e direi in particolare la latitanza dei paesi occidentali, perché se in fondo oggi la situazione in Iraq è questa, e mi creda il riferimento va ben al di là dell'Iraq in quanto tale, pensiamo per esempio a quello che sta succedendo in Siria e in altri paesi del Medio Oriente, spingiamoci anche sul versante libico. Per quale motivo il jihadismo sta facendo questi disastri? È chiaro che dietro c'è una regia occulta, una regia diabolica. C'è un meccanismo, a mio avviso, perverso che va smascherato e bisogna avere davvero il coraggio di parlare, di dare voce a chi non ha voce. Ora, Papa Francesco l'ha fatto in più circostanze. Ieri Padre Lombardi, intorno all'una, ha convocato i giornalisti nella sala stampa della Santa Sede e ha letto un comunicato di Papa Francesco nel quale il Vescovo di Roma ha espresso solidarietà alle minoranze religiose, a tutta questa umanità dolente che in questo momento è vittima della follia di questi jihadisti. Quello che trovo inaccettabile è per esempio il silenzio dei paesi del Golfo. Per quale motivo per esempio quei governi islamici che si dicono moderati non alzano la voce? Non denunciano. Questa pulizia, la possiamo definire una vera e propria pulizia religiosa quella che è in corso? Guardi, noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno molto complesso. Davvero qui siamo di fronte ad una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. Io come credente mi rifiuto di pensare che chi commette queste atrocità sia un essere religioso, perché una persona religiosa non può compiere simili misfatti. Qui ci troviamo. Ma vengono fatte e portate avanti molte di queste operazioni nel nome di Dio, comunque, per ottenere legittimazione. È una strumentalizzazione del nome di Dio. Vorrei ricordare che Giovanni Paolo II, Papa Benedetto, Papa Francesco, in più circostanze hanno sempre ricordato che la religione non può essere strumentalizzata in questo modo. Non si possono fare le guerre nel nome di Dio. E questi sono, a mio avviso, aspetti fondamentali, perché se questa è religione, mi diceva proprio l'altro giorno un carissimo amico missionario che tra l'altro vive in Medio Oriente, mi diceva: se noi consideriamo religione la follia di questi criminali, ma davvero aveva ragione Carlo Marx a dire che la religione è l'oppio dei popoli? Lo diceva naturalmente proprio provocatoriamente. Non possiamo assolutamente considerare questi criminali esseri religiosi. Barack Obama aveva, qualche anno fa, doveva essere, nelle aspettative anche internazionali, il presidente che avrebbe messo fine all'intervento militare in Iraq degli Stati Uniti, e sembra che invece nella notte si sia avviata una missione umanitaria che consiste nell'invio di aiuti paracadutati, soprattutto acqua, cibo e medicine ai civili in fuga, però si parla di possibilità di bombardamenti. E questo dalla caduta di Saddam Hussein a oggi, la situazione dei cristiani, già erano 1,5 milioni alla vigilia della caduta, diciamo, ora sono non in estinzione, ma sono 300.000, quindi è già un'operazione sulla quale noi apriamo gli occhi oggi, ma che è in corso da parecchio tempo. È in corso da parecchio tempo, però la cosa che va comunque chiarita è che qui a pagare il prezzo più alto in questo momento, in questo frangente, sono le minoranze religiose, non v'è dubbio. Ma se torniamo indietro con la moviola della storia, cioè da quando il presidente George W. Bush nel 2003 decise di iniziare la seconda guerra contro Saddam Hussein, che portò poi al crollo del suo regime, bisogna riconoscere che da allora è morto un numero, hanno perso la vita un numero indicibile di anche di musulmani, molti di questi sunniti, molti di questi sciiti. Cioè, quello che vorrei ricordare è che purtroppo tutto quello che è successo in questi anni non ha assolutamente risolto il deficit di democrazia che interessava e continua ad interessare quella regione. È chiaro che in questo momento la parte più sensibile, il nervo scoperto, la parte più dolente è quella delle minoranze religiose. Però non dimentichiamo che ci sono anche tanti musulmani moderati che stanno sperimentando la persecuzione da quelle parti. C'era una convivenza multireligiosa una volta. Sì, c'era comunque una convivenza multireligiosa, guardi, in queste terre. Io mi rifiuto di parlare in termini di guerra di religione. Preferisco dire: ci troviamo di fronte ad una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. Perché io credo che un musulmano credente e rispettoso nei confronti della rivelazione che ha avuto di Dio non possa arrivare a legittimare queste bestialità, questi atti di violenza che davvero sono contro Dio e contro l'uomo. E credo che questo sia molto importante. Però sarebbe anche importante che a levare la voce in questo frangente non fossero solo i cristiani, non fosse solo il Papa. Sarebbe auspicabile che la comunità islamica in Europa, che la comunità islamica nei paesi che si dicono moderati dell'area del Golfo si faccia sentire, facessero sentire la loro voce. E ne rilanciamo questo suo appello, padre Giulio. Per concludere, che sarà dei profughi? Abbiamo visto situazioni, immagini, foto di famiglie che scappano con poche cose, qualche borsa. Che sarà? Un'altra emergenza, guardi, umanitaria che si apre? Gente che ha perso tutto, le loro case sono state requisite, hanno perso il posto di lavoro. L'unica alternativa che hanno in questo momento è la fuga, è salvare la pelle. Quindi è importante anche che la comunità internazionale nei confronti di questi profughi manifesti un atteggiamento solidale. Qui bisogna capire che quando ci si trova di fronte a questi fenomeni uno non è che può stare alla finestra a guardare. Ma certamente è importante che il Consesso delle Nazioni, che le Nazioni Unite, che il Consiglio di Sicurezza si sveglino dal letargo in cui sono precipitati in questi mesi, perché se in fondo la situazione è così disperata, questo è un aspetto che credo sia importante sottolineare, è perché in questi mesi si è perso molto molto tempo, perché questo movimento ISIS è riuscito a raggiungere delle posizioni da un punto di vista militare così importanti e significative, perché qualcuno gliel'ha permesso. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. con i tanti cristiani che fuggono in Iraq ci sono anche tanti musulmani che temono la persecuzione islamista, ci ricorda Andrea Riccardi sul Corriere della Sera. Ora abbiamo anche qualcuno che vuole partecipare a questa riflessione su quanto sta accadendo ai cristiani in fuga in Iraq. Pronto, buongiorno Carlo. Pronto? Buongiorno, sono Carlo. Sì, dica. Io mi dispiace parlare perché il religioso precedente, però la storia ci ha sempre insegnato una cosa molto chiara, che la gente per qualsiasi tipo di rivoluzione si voglia fare, si muove o per fame o per religione. Sono le due scuse per far muovere la valanga di gente che serve per fare qualsiasi cosa. E la scusa finale poi per tutto fare è solo economica. Punto. E questa è la storia, in 2000 anni di storia, non si può fare un discorso di questo genere, quando è sempre stata così e così sempre sarà. Non parliamo delle scuse della storia delle religioni, delle invasioni con problemi economici per andare a liberare il Santo Sepolcro, l'hanno fatto solo in crisi economica per depredare e quindi risollevarsi. Quindi lei ci sta dicendo niente di nuovo, da sempre la religione serve da manto o da scusa per alimentare delle insoddisfazioni, azioni, missioni che hanno in realtà ben altri obiettivi. Padre Giulio, grazie. Grazie. Da questo punto di vista è la conoscenza, il rendere libere le persone con la cultura e la conoscenza. Perfettamente d'accordo. Grazie a Carlo che ci ha telefonato da una provincia lombarda. Padre Giulio, dunque la religione in questo caso viene strumentalizzata per fini eversivi, cioè il concetto che intendo esprimere è proprio questo. Ma diceva l'ascoltatore, non c'è nulla di nuovo in tutto ciò. Ma non c'è tutto, sappiamo che nel passato, se torniamo indietro con la moviola della storia, è chiaro che la religione in più circostanze è stata utilizzata come blanket, come coperta per celare anche interessi economici, ci mancherebbe, però il punto è proprio questo, è che la religione è ben altro. Il fatto che la religione sia stata strumentalizzata non significa che poi la religione possa legittimare simili comportamenti. La religione non c'entra nulla, viene strumentalizzata, come d'altronde anche la cultura spesso viene strumentalizzata per affermare logiche di potere, ideologie. No, ma lei è stato molto chiaro su questo punto. Vorrei ricordare anche accanto all'appello di Papa Francesco, che è stato ripreso un po' da tutti i media nel mondo, la disponibilità a voce di Bagnasco, del Cardinale Angelo Bagnasco, delle diocesi italiane ad accogliere questi profughi, perché sono... Questo ci dobbiamo aspettare, chiaramente sarà un'emergenza umanitaria di grandissima portata, difficile anche da prevedere la quantità dei cristiani che potrebbero approdare da noi. Certo, è chiaro che tutto quello che sta avvenendo esige da parte di tutti un atteggiamento solidale, non v'è dubbio, la solidarietà è fondamentale, l'accoglienza, però è importante avere anche l'onestà intellettuale di saper capire e comprendere davvero quello che sta succedendo in quel contesto, in Medio Oriente oggi, in questa linea di faglia tra Oriente e Occidente. Certamente la politica deve scendere in campo in maniera perspicace e bisogna riconoscere che purtroppo coloro che stanno nella stanza dei bottoni, mi riferisco soprattutto a quei signori che siedono attorno al tavolo del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, questi signori hanno fatto poco o niente, hanno le loro grandi responsabilità rispetto a quello che sta succedendo. Grazie mille a padre Giulio Albanese, missionario e giornalista italiano, ma soprattutto giornalista, lui ha diretto il New People Media Center di Nairobi e fondato la Missionary Service News Agency, un osservatorio privilegiato sulle crisi purtroppo di tutto il mondo. Abbiamo voluto dedicare questo approfondimento a quanto sta accadendo in Iraq, una situazione rilanciata e sempre in continuo sviluppo sviluppo, visto che si attende anche la decisione del Consiglio di sicurezza. È stato silente fino a questo punto, questa è la denuncia che arriva da molti, e ora si teme che l'intervento e il decisionismo si tradurranno ancora una volta in un'azione di guerra. In mezzo a tutto ciò, popolazioni civili in fuga. Si parla di centinaia di migliaia di persone. Cambiamo pagina ora per affrontare invece un tema che ci è stato portato sotto gli occhi dall'Argentina, ma anche in Italia, e non lo sapevamo. Avevamo un osservatorio particolare delle iniziative per la ricerca dei bambini sottratti durante la dittatura militare argentina agli oppressori, ai ribelli, a coloro che si ribellavano all'oppressione in Argentina. Venivano torturati, uccisi, e spesso venivano sottratti questi bimbi, che poi dati in adozione per tutta la vita avrebbero ignorato la propria identità. Ed è stata proprio una lotta per l'identità, per la restituzione dell'identità, che ha portato alla creazione di gruppi come le Abuelita o le Madri de Plaza de Mayo. In questi giorni ha commosso il mondo la mamma di Laura Carlotto. Ormai è una donna di 83 anni, è una nonna che ha potuto riabbracciare il nipote. Lui, Ignacio Urban, è un musicista, ha 36 anni ed è il nipote numero 114 ritrovato da questa organizzazione Abuelas de Plaza de Mayo. Sono nonne argentine che cercano quei neonati che vennero allora sottratti alle madri nei campi di concentramento della dittatura dal 1976 al 1983. Furono dati soprattutto alle famiglie di militari, ma non solo, per quello li si cerca un po' in tutto il mondo e soprattutto in Italia. Noi abbiamo intervistato Carlos Cermiak, una persona che nella conversazione ha un po' ripercorso tutto quello che in questi anni è stato fatto per ritrovare questi ragazzi, che ci ha tenuto a ricordare che l'Italia può svolgere un ruolo fondamentale. Abbiamo dovuto registrarlo, non è in diretta perché si trova proprio in questo momento a Buenos Aires, e dunque il fuso orario non gli avrebbe consentito di partecipare dal vivo con noi a questa conversazione. Sentiamo cosa ci ha detto quando gli abbiamo chiesto esattamente lui cosa fa. Io sono il ministro plenipotenziario dell'ambasciata argentina presso la Repubblica Italiana a Roma, sono responsabile dell'ufficio politico e di diritti umani dell'ambasciata. Cioè l'Argentina dunque è un paese che è transitato dalla dittatura di Videla, certo anni fa, a un ministero per i diritti umani. Siete un paese che ripone molta attenzione sulla conservazione della memoria. Dobbiamo dire che chiaramente per noi la differenza fra la dittatura e la democrazia è la stessa differenza fra la vita e la morte. E noi abbiamo imparato come società che non si può costruire una democrazia forte senza verità piena, senza nascondere la storia, la tragedia sotto il tappeto, e quindi dopo di avere la verità, di sapere la verità, di avere coscienza della verità, la unica possibilità è dare una risposta della giustizia, una risposta istituzionale, e quindi il terzo passo naturale è la memoria. Si può lavorare sulla memoria quando chiaramente si conosce e quando c'è la giustizia che fa chiaramente la differenza fra il bene e il male, e questo questa è nostra democrazia. Io credo che la democrazia argentina sia diventato un laboratorio per i diritti umani. Ministro, lei oggi si trova a Buenos Aires, per quello registriamo questa conversazione, lei non è con noi in diretta. Si trova a Buenos Aires, una città che ha appena accolto da poco, una nazione che ha accolto da poco la notizia che Stella De Carlotto ha ritrovato il nipote dopo 35 anni. Qual è la reazione del paese? Innanzitutto lasciami dire che io sono ancora molto emozionato. Devo dire che ogni volta che vedo in TV la immagine di Stella abbracciando alle altre nonne, alla sua figlia Claudia e la sua famiglia, aspettando l'incontro con suo nipote Guido, io non posso evitare piangere, perché come io, tanti in Italia abbiamo ricevuto a Stella, abbiamo andato con Stella per molti posti tentando di inviare il suo messaggio e fare questa campagna per trovare i nipoti che ancora mancano trovare. E allora sentiamo anche lei, Stella, cosa aveva raccontato durante il suo viaggio in Italia, la sua testimonianza. In aprile del 78 viene una signora al negozio di mio marito, la fabbrica. Nell'aprile del 1978 arriva una signora nel negozio di mio marito, molto spaventata, e dice a Guido: sono una vicina, sono stata sequestrata in un posto con tua figlia Laura. E lei mi ha chiesto, nel caso che venissi liberata, di venire da te per dirti che lei sta bene, che sta aspettando un bambino ed è incinta di 6 mesi. Se è un maschio, lo chiamerà come te, Guido. Laura è stata 9 mesi sequestrata. Il suo bambino è nato lì. Lo hanno preso dopo poche ore. Non so dove sia. Ha già 34 anni. Non so dove sta. Tiene 34 anni già. Aveva 34 anni, ora ne ha 36 e si è riunito con la nonna Stella De Carlotto, e continueremo con queste storie, con questa ostinazione straordinaria delle Abuelas de Plaza de Mayo dopo le 9, dopo il GR. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Nove e 09 ed è la vigilia di quello che potrebbe essere il Ferragosto da bollino rosso, no da bollino nero, no non ci sarà nessun problema perché gli italiani in vacanza non ci vanno. Queste sono le tre possibilità per ora rilanciate da giornali e opinione pubblica. 800 24 00 24, estate 2014, di questo parleremo e vogliamo controllare con voi qual è la fotografia vera del paese, al di là delle discussioni, delle previsioni. Solo il 31% degli italiani quest'anno parte per le vacanze tradizionali, diciamo. Il resto che farà? Affollerà spiagge, parchi acquatici. Pensate che per una famiglia di 4 persone, tra l'altro, trascorrere una giornata in un parco acquatico non è che sia poi così economico. In media in Italia 4 persone costano 187 euro. E le vacanze low cost funzionano? Ci sono sempre meno partenze, ma soprattutto il budget è risicato. Alcune accortezze contro la crisi. Ci sono delle località che si sono aggiudicate una palma per il fatto di essere molto economiche. Parliamo di Peschici, per esempio. 4 posti letto da affittare per una settimana a Peschici costano in media 300 euro, diventano 520 ad agosto. Secondo questo portale casavacanza.it, a Vieste costa 350 euro a luglio una settimana per 4 persone e 500 ad agosto. Chissà, forse voi avete altre segnalazioni da farci per itinerari low cost. 800 24 00 24, alcuni degli aspetti di quel business da 70 miliardi che in Italia si chiama turismo e che sembra sia abbastanza trascurato, unito ai problemi che si sono verificati in questi giorni e per il ritiro dei bagagli a Fiumicino e per i guasti in stazione centrale ieri. Insomma, una fotografia a tinte fosche che a volte getta nello sgomento più totale una risorsa su cui investire, perché si fa ancora fatica a far sì che le infrastrutture per i vacanzieri almeno un mese l'anno funzionino perfettamente in questo paese. 349, questo è il numero invece degli sms per le vostre segnalazioni, 238 6666. Ma di tutto questo parleremo dopo le 9:20. vi abbiamo anticipato l'argomento del dibattito, stiamo ascoltando però una storia bellissima che arriva dall'Argentina e non solo, è l'Argentina delle nonne di Plaza de Mayo, lei è Stella Carlotto che ha ritrovato il nipote desaparecido dopo 36 anni, ha commosso un paese intero e anche il mondo, una delle notizie che più è stata rimbalzata anche sui social media. I quotidiani nazionali a Buenos Aires sono usciti con la pagina intera di questa donna che ritrova il nipote. Ricordiamo però sono stati più o meno 500 i neonati tolti dopo il parto alle madri rapite, a volte proprio per questa ragione, per essere successivamente uccise, private del proprio bambino naturalmente, che veniva consegnato a qualcun altro. E molte di queste ragazze e ragazzi in giro per il mondo sentivano dentro di sé che forse c'era qualcosa che non andava nella famiglia in cui stavano crescendo, sentivano, avvertivano a volte sensazioni strane, per quello si sono sottoposti a test del DNA. Hanno chiesto che la loro condizione, che il loro patrimonio genetico venisse indagato e confrontato con quello o di qualcuno segnalato come desaparecido o della famiglia che li accoglieva. Vogliamo proporvi alcune delle testimonianze. Cominciamo dunque con Paula Lugares. Conmigo si queda il subcomissario della brigada in questo momento. Rimango col sottocommissario dell'unità di quell'epoca. Tempo dopo pensavo che forse quando sono arrivata con i miei genitori lui era l'incaricato dell'unità. Rimango con lui, mi registra come sua figlia. I miei genitori sono stati lì per altre settimane, non so se alcune settimane o un mese. Dopo li hanno portati al Pozo de Banfield. Dei miei genitori, Monica e Claudio, sappiamo che sono stati lì e poi più niente. De ellos, de mis papás y mi mamá, Monica e Claudio, sabemos que estuvieron ahí y de ahí no sabemos más. È una delle donne che si è messa a cercare la propria identità per poi scoprire chi fossero i suoi genitori veri. Saliamo dai tribunali. E io iba già in uno degli autos con mia abuela e mio abuelo, che lo sacava di vedere in quel momento. Siamo usciti dal tribunale. Io ero già in macchina con mia nonna e mio nonno, appena conosciuti. E andiamo a casa loro, a Banfield, la stessa casa che avevo conosciuto da piccola. Arrivo, non dico di ricordarla, ma ciò che ha colpito mia nonna fu il fatto che mi muovessi e camminassi per casa come se la conoscessi già. Rispondevo a un altro cognome, chiamavo papà e mamma persone che non lo erano, ma quando mi dissero come stavano le cose e ciò che era accaduto, è stato terribile, scioccante. Ma dopo sono riuscita ad accettarlo e non ho mai rinnegato ciò che mi dissero di loro. La tua vera famiglia è questa, ma c'è anche il problema che tuo padre e tua madre non ci sono più. Forse è la cosa che mi fa più male. Mia madre e mio padre non sono tornati più. Ho recuperato la mia famiglia, ma papà e mamma no. Forse questa è la cosa più dolorosa. Talvez sia questa la più forte. E proprio di tutti questi casi abbiamo discusso col ministro plenipotenziario per la politica, la cooperazione e i diritti umani dell'ambasciata argentina in Italia. Sentiamolo allora, Carlos Cerniak. Ricordo tutto in quel momento e ricordo tutto quando la vedo tanto felice. Sì, è il paese chiaramente commosso, è una situazione trasversale, sono diverse, non è un settore sociale particolare, non è un settore politico in particolare. Devo dire che il ritrovamento del nipote Guido di Stella Carlotto è una cosa che ha avuto un impatto in tutta la società. La gente parla di questo, sicuramente è la notizia più importante, più famosa oggi, la gente si ferma nella TV e nel bar per vedere le immagini di questa notizia e chiaramente è un grande shock, molto positivo per nostra società. Quanti sono, ministro, e dove si trovano, secondo la vostra esperienza, le vostre ricerche, i figli e i nipoti rubati? Dobbiamo dire che le nonne hanno l'idea che sono 500 i bambini rubati durante la dittatura. Sono stati ritrovati in diversi momenti di questi anni 114 con Guido. Mancano quasi 390, quindi dobbiamo dire che ancora questa tragedia dentro di quella macro tragedia ancora ha bisogno di molta lotta, di molte campagne, molta diffusione di questo messaggio, perché possono essere ancora tanto in Argentina come all'estero questi nipoti che le nonne stanno cercando. Lei trova che l'elezione di Papa Francesco abbia fatto bene alla vostra causa? Voglio dire che io l'ho accompagnato a Stella Carlotto a trovare il Papa Francesco, e il Papa Francesco ha dato un messaggio molto chiaro, ha detto può contare su di me. Quindi il messaggio è di un Papa che conosce moltissimo bene questa storia e che dentro del contesto si ha messo a disposizione per poter aiutare. Quindi possiamo dire che il Vaticano ha dato chiaramente alcuni passi avanti con l'apertura di alcuni archivi sulla richiesta di giudici dell'Argentina nei processi che vanno avanti. Questo è chiaramente un passo molto importante, ma Stella anche le ha lasciato una lettera al Papa Francesco con qualche richiesta in particolare che sicuramente Stella e le nonne ancora stanno aspettando alcune di queste risposte. Però devo dire che lo che si vede sono alcuni passi avanti molto importanti, e ovviamente questo le nonne lo ringraziano e la società democratica argentina ringrazia il Papa Francesco. Lei è cattolico? No. Però ritiene che quelli del Papa siano stati gesti importanti? Guardi, io quando sono stato con il Papa in un'altra opportunità gli ho detto chiaramente che io ero un diplomatico argentino non cattolico, però che rispettava moltissimo il messaggio umanista del Papa, che era un messaggio trasversale che andava oltre quello che poteva uno identificare come la comunità cattolica. Il suo messaggio va molto più al di là di una comunità religiosa particolare, e io lo valuto di questa maniera e credo che molta gente la pensa così. Non è l'unico. E quanti sono secondo lei i figli che potrebbero essere fuori dai confini argentini? Cioè, qual è la ragione della vostra attività in Italia? In cosa consiste? Ok, possiamo organizzare la risposta di questa maniera. Avere un ufficio diritti umani in un'ambasciata straniera significa una decisione politica dell'alto livello del governo democratico, in questo caso argentino, che dice la politica dei diritti umani è un pilastro fondamentale nella costruzione della nostra democrazia. C'è un'altra parte importante, dire che lo che è successo in Argentina durante la dittatura civico-militare e lo che è successo in altre storie di dittature in America Latina e in altri paesi, chiaramente è la dimostrazione di una mancanza di solidarietà politica internazionale, perché non è possibile pensare che lo che è successo in un paese come l'Argentina, il paese più italiano nel mondo dopo l'Italia, no? Più del 50% discendono dagli italiani, si possano dire che questo non era a conoscenza dell'autorità o delle autorità di diversi paesi importanti del mondo in quel momento. Quindi la mancanza di questa solidarietà politica ha creato o ha lasciato la possibilità di che i militari in Argentina possano andare tanto oltre. Quindi sono convinto che creare coscienza su questo punto, lavorare sul campo della memoria, creare come noi stiamo facendo con molte vittime di diverse tragedie in Italia, di creare abbracci di memoria, no? L'idea di trovare per esempio con i familiari delle vittime delle fosse ardeatine, con il museo di Via Tasso, con il movimento antifascista e il movimento partigiano italiano, cioè, tutti questi incontri, questi abbracci di memoria fra due tragedie diverse, però che de alguna manera el mensaje es, la Argentina dice nuestra tragedia es nuestra tragedia, ma vostra tragedia es la nuestra tragedia, es un mensaje humanista que tenta de mostrar la importancia de ser parte de la stessa comunidad internacional. Al mismo tiempo, noi lavoriamo sulla memoria nelle scuole, nelle università, anche crediamo, siamo convinti che alcuni di questi nipoti che le nonne stanno cercando possono essere in Italia per il rapporto di fratellanza storica, perché anche perché l'organizzazione P2 è stata coinvolta nella pianificazione del colpo di Stato argentina, per tanti motivi, per motivi di impunità, per motivi di fratellanza, per motivi di giovani già grandi che hanno deciso forse nella crisi economica dell'Argentina di andare all'estero. Quindi possiamo dire che alla fine ci sono molte ragioni che uno può immaginare per trovare alcuni di questi nipoti in Italia. Per questo che noi facciamo una campagna molto intensa in tutto il territorio italiano. Abbiamo bisogno di diffusione di questa campagna. Grazie. E un'ultima domanda. Dopo questo ritrovamento, questo momento di forte commozione, di grande soddisfazione, tra l'altro lo ricordiamo, Estela De Carlotto è la presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo. Giusto. Vorrei chiederle, con questi 114 casi naturalmente avete in qualche modo restituito un'identità a persone che non sapevano d'averla, anche se molti di loro avevano dei dubbi, per quello si sono rivolti a voi per l'esame del DNA. Tutte le famiglie, non saprei come definirle, ma che hanno avuto questi bambini, questi ragazzi, poi uomini e donne, e si sono ritrovate con un figlio non loro, sono state complici, erano tutte al corrente del fatto che questi neonati o bambini piccolissimi venivano sequestrati a coppie di ribelli, oppositori del regime, torturati, uccisi tante volte? È un'eccellente domanda. Devo dire questo, che lo primo che uno deve capire è che questa storia è una storia complessa, dove ogni caso è un caso diverso. C'è un protocollo, c'è un sistema che la dittatura aveva portato avanti di fare di ogni donna incinta che diventava prigioniera, la lasciavano partorire e dopo la uccidavano per non lasciare traccia, e questi bambini erano dati in adozione illegittima, normalmente erano appropriati per i familiari o per gente vicina al regime militare. Questo è un protocollo, però dopo, in ogni caso particolare, quando uno va avanti nella ricerca, si rende conto che ogni caso era diverso. Quindi ci sono dei casi dove gli stessi carnefici, gli stessi torturatori o assassini dei genitori si appropriano del bambino. Ci sono casi che hanno lasciato in un posto per bambini religioso, e questi bambini sono dati in adozione a un familiare, a un agente di buona fede. Ci sono un giudice che di mala fede, o anche come un chiaramente una persona accanto o vicino al regime, dà tutta i fogli, la documentazione per creare questa identità finta a questi bambini. Quindi dico, la catena, la struttura di questa complicità è molto complessa, però ovviamente anche ci sono delle persone che hanno tentato di prendere cura di alcuni di questi bambini, e l'hanno fatto anche alcuni di buona fede. Quindi è una cosa che la giustizia deve decidere ogni caso. Caso per caso, situazioni delicatissime quelle che avete sentito, nonostante ci si stia concentrando in questi giorni sul lieto fine che ha riunito Estela Carlotto al nipote Guido. La voce che avete sentito era quella di Carlos Cerniak, ministro plenipotenziario per la politica, la cooperazione e i diritti umani all'ambasciata argentina qui in Italia. E vi ricordo anche, per coloro che vogliono saperne di più e ci stanno facendo domande, sono tantissimi anche gli argentini in Italia, potete trovare questa campagna per l'identità sul sito uniroma3.it, cioè sul sito dell'Università 3 di Roma, perché ci sono interviste, ci sono i video di coloro che sono stati riaccolti nella famiglia biologica, diciamo così, e ci sono molti approfondimenti. Se volete contattare l'ambasciata per una vicenda che vi riguarda, siete invitati a farlo attraverso quel canale. Noi tra pochissimo ci troveremo invece a parlare di questo weekend che si apre. Come sarà? Stando al Codacons, sono 9 milioni in meno rispetto a qualche anno fa gli italiani che nel 2014 potranno permettersi una vacanza. Altri parlano di vacanze mordi e fuggi, vacanze low cost. Il 31% degli italiani potrà permettersi una vacanza tradizionale, di quella come veniva definita una volta, con una data di partenza, una data d'arrivo che possibilmente non è un giorno dopo, due giorni dopo, vacanze che per molti rimangono una chimera. Però domani si teme, bollino rosso, bollino nero, situazioni difficili sulle strade e molte difficoltà. L'abbiamo visto, il putiferio generato in questi giorni l'hanno avuto soprattutto quelli che si sono trovati a volare dalle parti di Fiumicino. Continuano le proteste, c'è stato l'accordo con Etihad e Alitalia, però i lavoratori di Fiumicino ora minacciano di mettersi in malattia, secondo alcuni inaccettabile, secondo alcuni è invece l'unica forma per farsi sentire, per salvare i posti di lavoro. Sono temi che abbiamo affrontato spesso da questi microfoni a Radio 24, anche a Cuore Denari. Oggi noi invece vogliamo concentrarci su coloro che utilizzano il treno, o meglio, che non lo utilizzano a volte perché non lo reputano nemmeno più un mezzo affidabile. Mentre ci sono pendolari in aumento e persone che devono spostarsi non solo per le vacanze, ma per il lavoro, per ragioni di studio, sono l'85% degli italiani. Pensate, si sono allungati sempre di più in Italia i tempi legati alla mobilità necessaria, diciamo a quella che non ti porta nel luogo di svago. E ieri un altro incidente, nel senso di caos in una dei principali snodi ferroviari del paese. Stiamo parlando della stazione centrale di Milano. Ancora disagi, sono stati risolti, sono stati gestiti in tempi anche abbastanza accettabili, anche se ancora una volta chi si è trovato intrappolato in quella situazione ha lamentato la scarsità di informazioni. Nessuno ci guidava, nessuno ci diceva cosa stava accadendo. E ripercorreremo dunque la stazione centrale di Milano paralizzata, i ritardi, le proteste, insieme a voi tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Cos'è successo dunque alla stazione centrale ieri? Quali sono stati i motivi del blocco? Alcuni convogli che erano a poca distanza dalla stazione centrale di Milano. Il tutto è avvenuto tra le 10.50 alle 11.30 per un problema tecnico. Sia treni ad alta velocità che quelli regionali sono stati dirottati e centinaia di passeggeri, migliaia, sono stati naturalmente bloccati. Ci sono state proteste. Parleremo con il presidente di un'associazione consumatori, Altro Consumo, tra poco. Ma sentiamo con il direttore commerciale e della circolazione ferroviaria di RFI quali sono i motivi di questo blocco, che ieri restavano ancora da chiarire. Forse oggi lei ci può dare lumi. Innanzitutto grazie per aver partecipato e benvenuto Orazio Iacono. Grazie a lei, grazie, buongiorno anche ai radiospettatori. Dunque ieri dalle 10.50 cosa è successo in centrale? Allora, perché si parlava di problema tecnico, ma non abbiamo capito le cause. Allora, innanzitutto desidero precisare che prima si è parlato nella presentazione di incidente. Non c'è stato alcun incidente. Lo dicevamo in senso metaforico. Ha ragione a precisarlo, perché quando si parla di trasporti... Sì, esatto. Sì. Quindi non incidente. Allora, alle 10.50 di ieri si è spento l'apparato di gestione e controllo del traffico di Milano Centrale. Contemporaneamente andavano fuori servizio anche i sistemi di informazione altoparlanti e monitor, quindi non c'era la possibilità subito di poter dare informazioni ai passeggeri nei primi 30 minuti. Immediatamente la macchina operativa di emergenza si è attivata subito, infatti l'intervento tempestivo dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana ha permesso una parziale ripresa della circolazione entro poco più di 30 minuti, circa alle 11.20 abbiamo ricominciato ad utilizzare l'apparato di gestione e controllo del traffico. Dicevo prima, la macchina operativa di emergenza, come avete detto anche voi all'inizio, ha funzionato perché il piano di emergenza, che prevede una serie di attività codificate, ovvero l'utilizzo di alcuni di altri terminali diversi da quelli programmati, è stato attivato immediatamente. Abbiamo infatti deviato alcuni treni su percorsi alternativi, utilizzando quindi la stazione di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi, che non erano interessati dal guasto, e ovviamente abbiamo dovuto fare delle limitazioni, quindi alcune cancellazioni, ed utilizzato anche le stazioni Porta del Nodo, vedi Rogoredo, Monza e Milano Certosa, collegate tra di loro attraverso le linee della metropolitana. Abbiamo capito. Orazio Iacono, ma lei dice si è spento l'apparato di controllo, sì, c'era il piano d'emergenza. Arrivo, perché? Ecco. Perché si è spento? Sì, sì, sì, esatto. Quindi praticamente cosa è successo? È successo che alle 10.50 di ieri c'è stato un guasto ad un'apparecchiatura elettronica del sistema di alimentazione dell'apparato di gestione e controllo del traffico. E su questo abbiamo già istituito una commissione interna di specialisti con l'incarico di ricostruire quanto accaduto ieri mattina nei minimi dettagli. L'obiettivo qual è? Quello di capire le origini del guasto in modo tale da poter prevenire analoghe situazioni e per che si possa ripetere una cosa del genere, soprattutto in agosto. 800 scusi, mi lasci dare il numero di telefono 800 24 00 24. Partiamo da questo disagio che ieri si è verificato per chi viaggiava in treno, per fotografare quello che sarà questo weekend agostano, da alcuni definito caldo rovente, assolutamente di punta, altri invece dicono non ci sarà nessun esodo, la crisi. Ci scrive qualcuno: le mie ferie saranno nell'orto perché devo risparmiare anche sulla verdura, non ci sono soldi. Questo è Loris. 349-238-6666 per i vostri sms. E qualcuno dice che ormai la situazione in Italia, ci sembra un po' esagerato nonostante tutti i problemi, però sia da far west, e per questo preferisce fare le vacanze all'estero. Unisce la questione prezzi, che affronteremo anche tra poco, perché i prezzi sono chiari, paghi quello e nient'altro, mentre qui invece non si capisce. Il riferimento è anche alle tasse di soggiorno che si pagano sugli alberghi, non si pagano sugli appartamenti, ci sono state proteste anche in questa direzione. Ma continuiamo a cercare di capire insieme a voi cosa è successo alla stazione centrale. Come avete sentito, la premura del direttore commerciale della circolazione ferroviaria di RFI, Orazio Iacono, che sta parlando a fare in modo che non si ripeta una situazione di questo genere. C'erano viaggiatori che non sapevano dove andare e non sapevano qual era il loro binario, perché in questo blocco i tabelloni luminosi erano spenti. Come avete sentito, si era bloccato un po' tutto il sistema, l'apparato di controllo si chiama, e quindi non si riusciva nemmeno a dare, tramite altoparlanti o megafoni, delle indicazioni alle migliaia di persone intrappolate lì, spesso con valigie pesanti, bambini, anziani, segnalano le cronache locali di Milano. Paolo Martinello, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente di Altro Consumo, non è nuovo a situazioni e disagi di questo genere. E quello che è successo ieri dal punto di vista dei consumatori, cosa indica? Beh, indica che ci sono sicuramente delle debolezze nel sistema. Naturalmente è inutile speculare, incidenti o guasti possono accadere. Questo è stato un guasto, do atto essere stato rimediato in modo abbastanza veloce, però le ripercussioni sono state pesanti, perché al di là dell'ora circa nella quale, meno anche, nella quale c'è stato, diciamo, il blackout, le ripercussioni sono state molto pesanti anche nelle ore successive, e soprattutto il disagio causato ai passeggeri è stato stato, se posso dire, più pesante del solito, perché il dirottamento dei treni inevitabile su altre stazioni ha fatto sì che poi molte persone hanno dovuto trasbordare con mezzi di altro tipo, taxi, metropolitane da una stazione all'altra, senza contare naturalmente la mancanza di informazioni, che in queste situazioni è quello che forse pesa di più ai consumatori, più che il ritardo, al quale magari non dico che ci si sia fatta l'abitudine, ma si può anche, diciamo, in qualche modo sopportare. Cioè, più che il ritardo, il disorientamento, come fare, come organizzarsi. Guardi, noi stiamo vivendo questa esperienza di Trenord di 2 anni fa, dove addirittura una situazione, per certi versi, simile, da quanto ho capito, un blackout ha causato però disagi per una settimana, e abbiamo altro consumo a una class action pendente davanti al Tribunale di Milano, per la quale stiamo raccogliendo ancora le adesioni, quindi chi è interessato lo può fare. Spero che non dovremo fare una class action anche in questo caso. Diciamo che il regolamento prevede che ci siano degli indennizzi automatici per i passeggeri, è importante che questo diritto minimale venga rispettato. Cioè, lei dice sia un euro, siano 3 euro, sì, 100 guardi, euro, è una questione che va al di là dell'entità economica. Il principio è che quando c'è un disservizio che causa ritardi oltre certi livelli ai consumatori, deve esserci un indennizzo che, tra l'altro, ripeto, non è nulla di stratosferico, perché stiamo parlando al massimo del 50% del costo del biglietto, nella maggior parte dei casi il 25% se il ritardo supera un'ora, quindi non è una cosa assolutamente vessatoria nei confronti delle aziende, anzi, però ecco, questi diritti vanno rispettati, cominciamo da qui e poi vedremo bene di chi sono le responsabilità, perché ci può essere anche il caso di passeggeri che hanno subito un danno particolarmente grave, chi per esempio ha perso aerei a causa del blocco della stazione, chi ha perso coincidenze, eccetera. Però diciamo, io mi aspetto che da parte di Trenitalia ci sia una presa di posizione chiara, anche nel senso di dire non solo che abbiamo fatto il possibile per ridurre i disagi, ma siccome i disagi ci sono stati, bisogna riconoscerli, bisogna anche indennizzarli, non perché quei pochi euro siano la soluzione, ma perché è una questione di correttezza nei rapporti con i clienti, e pagare un indennizzo vuol dire anche anche una funzione preventiva, se posso dire. Cioè, gli indennizzi sono previsti anche perché queste disfunzioni devono avere un costo per le aziende, anche nei confronti degli utenti, altrimenti continueranno ad accadere. Azienda che naturalmente abbiamo invitato in trasmissione, cercando a più riprese di avere un interlocutore per un contraddittorio. Orazio Iacono è il direttore del commerciale circolazione ferroviaria, può rispondere soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture. Non so se lei sa come intende agire Trenitalia sull'indennizzo. Innanzitutto, allora, desidero precisare che il guasto è durato 30 minuti. Alle 12.30, quindi questo dalle 10.50 alle 11.20, poi alle 12.30, dopo il completamento delle verifiche di sicurezza sulla piena operatività di tutti gli scambi e segnali, abbiamo ripristinato la piena funzionalità dell'apparato di gestione e controllo del traffico e del sistema di informazione. Ripeto, altoparlanti e monitor che nella prima mezz'ora non hanno funzionato, quindi è stato anche questa prima mezz'ora quella parte più critica, perché non riuscivamo a fare informazione e dare informazione ai passeggeri come siamo abituati a fare quando ci sono scostamenti di programma importanti, quindi significativi, determinati da guasti. Dopo, dalle 11.30 in poi, abbiamo ricominciato ad utilizzare gli altoparlanti e i monitor, perché appunto siamo riusciti a riattivare subito anche quelli. Sì, sì, abbiamo capito, rimane ecco. Chiaramente la domanda su un disservizio di questo tipo in una giornata come quella di ieri. Stefano da Roma, buongiorno, pronto? Pronto? Buongiorno a tutti. Dica. Dunque, premetto che chi lavora poi può sbagliare, quindi nessun problema, anzi sono stati molto rapidi nella risoluzione dei problemi ieri. Il problema, come ha detto lo stesso Iacona, sta nel fatto che è saltata una centralina di alimentazione. Non è il problema della risoluzione dei problemi, ma è il problema che sta a monte di tutta la struttura tecnica dei treni. Noi pendolari, utilizzatori di treni, lo vediamo tutti i giorni che c'è sempre qualche cosa che non va e si rompe quello e si rompe quell'altro. Quindi vuol dire che la diciamo così, io la chiamo la sicurezza, Iacona dirà di no. la sicurezza del servizio, l'affidabilità forse vuol dire l'affidabilità del servizio è sempre messa in secondo piano rispetto a logiche di budget, di cose. Mi domando io chi sono i responsabili della centralina di alimentazione, quanto prendono l'anno e perché non hanno gestito un problema come si può rompere un hard disk di un computer, si può rompere una centralina, se ci fosse ridondanza non ci sarebbero questi problemi. Grazie. Questo è un problema costante. Grazie. Grazie a Stefano. Orazio Iacono ha la possibilità di rispondere. Innanzitutto è la prima volta che succede un guasto del genere a Milano Centrale, un apparato appunto che comanda e controlla più di 500 scambi e più di 600 segnali che sono i semafori ferroviari che fanno muovere i 600 treni al giorno che interessano, che entrano e escono dalla stazione di Milano Centrale. Abbiamo attivato una commissione d'inchiesta con specialisti e coinvolgendo anche il costruttore dell'apparecchiatura elettronica, perché anche noi vogliamo capire nei minimi dettagli cosa perché quell'apparecchiatura elettronica non ha funzionato. Cioè, perché voi a vostra volta siete stati danneggiati nell'immagine. Assolutamente. Naturalmente. Abbiamo immediatamente coinvolto il costruttore di quell'apparecchiatura elettronica per capire perché quell'apparecchiatura non ha fatto il suo dovere. Grazie. Dario Balotta, buongiorno. Con lei vorremmo affrontare il tema, oltre naturalmente sappiamo che tipo di disagi ha causato il problema di ieri e quei disservizi che si verificano sui treni. E che ricadute ha tutto ciò, questo senso di mancanza di affidabilità del mezzo pubblico che è così diffuso in Italia, a torto o a ragione, perché ci sono tratte in cui alcuni pendolari ci segnalano sono anche servite eccellentemente. Questo senso di mancanza di affidabilità porta a una situazione ambientale terribile, cioè in Italia solo 13 su 100 utilizzano mezzi pubblici, anche dove ci sono questi mezzi pubblici, e non è una situazione da 2014, quando l'unico spostamento sostenibile e rispettoso dell'ambiente che andrebbe incentivato con un piano trasporti vero e proprio dovrebbe essere proprio quello di treni, mezzi di trasporto pubblici, e si continua a preferire l'auto. Ma non solo, il 13% comprende tram, treno, bus e metropolitana. Sì. Quindi messo dentro e corriere. Tutti, ecco, sì, gli autobus. Bus, sì. Già dentro tutti. Questo, abbiamo quindi una quota di trasporto, diciamo così, sostenibile che è bassissima. La strada preferita per forza. Non perché piace agli italiani avere da pagare l'auto, il bollo dell'auto, l'assicurazione, benzina, andare dal meccanico, traffico, trovare il parcheggio e stare in automobile, insomma, non c'è nessuno che ama questa cosa qui. Però dobbiamo considerare che la qualità complessiva del sistema del trasporto pubblico è estremamente bassa, insomma, l'incidente di ieri è solo una fotografia, perché quando non c'è l'incidente eclatante c'è lo stillicidio dei ritardi, quindi se consideriamo tutti i treni soppressi, tutti i ritardi, per esempio nella sola Lombardia dal 1 agosto a prima di quell'incidente lì di ieri, erano stati soppressi in 4-5 giorni 300 treni, significa che si presenta in banchina, in stazione, un passeggero e dopo 10 minuti all'orario dell'arrivo del treno gli si annuncia che il treno non c'è più e deve aspettare l'ora successiva. L'anno scorso è stata la stessa cosa tutta estate, sia in luglio che in agosto, perché si è sbagliato a fare i turni di ferie, insomma. C'è questo stillicidio, il problema dell'inefficienza complessiva del trasporto pubblico, della sua non essere in rete tra un mezzo e l'altro, con una pianificazione complessiva di respiro, dove non c'è il bus c'è il treno, dove non c'è il treno c'è il car sharing. Il fatto anche che a gestire il trasporto pubblico siano le regioni poi favorisce anche questo tipo di disomogeneità. Il federalismo dei trasporti è stato deludente da tutti i punti di vista. Non solo ha fatto schizzare in alto i costi complessivi per la gestione del trasporto pubblico, perché è un mito da sfatare che spesso anche i pendolari qualche volta nella loro disperazione interpretano così. Ci sono pochi soldi per il trasporto pubblico e per questo vanno male. Questo non è più vero, da 20 anni non è più vero. Le risorse per il trasporto pubblico sono aumentate in modo considerevole e però i risultati sono di una fortissima inefficienza, perché il sistema di gestione protetto, monopolista, con caratteristiche tra virgolette consociativo-politiche è rimasto quello. Il rapporto non è con l'utenza ma è col fornitore, il rapporto non è con l'utenza ma è con il padrino politico che ha fatto questa o quella nomina. Questa è la triste realtà che dobbiamo considerare. Insomma, andiamo a vedere però in questo momento su Strade e Autostrade Italiane cosa sta succedendo alle 9:48 dell'8 agosto. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E riprendiamo subito con voi all'800 24 00 24. Pronto, Thomas? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Sì, allora, io ero stato tra i pendolari nell'inferno di Trenord 2 anni fa, ecco, sulla Torino-Milano. Ma al di là del fatto di un gestionale che non funzionava solo in Italia, ma in tutto il mondo, l'hanno comprato decine di paesi, non funzionava solo qui, quello che dà più fastidio è la totale disorganizzazione che è presente. Le faccio un esempio: in questo periodo io non prendo più il treno, ma sono prescritto al comitato pendolari per solidarietà, poi mia moglie prende il treno. E in questo periodo hanno già diminuito il numero dei treni e di carrozze, ma diminuiscono il numero di carrozze sui treni alla mattina pieni di pendolari. E poi alle 11 del mattino ci sono dei treni con 10 carrozze completamente vuoti. Cioè, uno non riesce a capire cosa ci può essere dietro questo tipo di situazioni. È veramente ridicolo. Grazie, perché i disagi di ieri, per esempio, alla stazione centrale non suscitano estrema simpatia a volte, perché sembra si stia parlando di vacanzieri. Quello che però è successo, è stato gestito anche abbastanza in fretta ieri da Trenitalia, ha contribuito ad alimentare quel senso non solo di disaffezione, ma proprio di mancanza d'affidabilità che il trasporto pubblico ancora ha in Italia. Dovrebbe essere invece un segmento strategico dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, sono i temi di cui si dibatteva ancora prima della chiusura del secolo, del millennio scorso. Si doveva arrivare a un anno 2000 in cui ci si sarebbe mossi in maniera sostenibile e rispettosa dell'ambiente. In Italia, pensate, sono quasi 29 milioni le persone che ogni giorno effettuano spostamenti per andare sul posto di lavoro e di studio. Sono in crescita, sono cresciute in 10 anni di 2 milioni e 100 mila unità. E questo rende ancora più cruciale, importante, fondamentale far sì che il servizio sia efficiente e soprattutto responsabile, risponda a una logica di responsabilità ogni volta che si creano situazioni di disservizio o disagio. Vista la percentuale di persone che ancora utilizzano la macchina, vale a dire 85% l'auto, ovviamente questo obiettivo non si è colto. Paolo Martinello, pronto? Condivido le analisi che sono state fatte negli ultimi interventi. La direi in una battuta: quando si tratta di investimenti, allora prendiamo il caso dell'alta velocità. Una battuta. No, allora l'alta velocità è stato un grandissimo investimento che ha funzionato, nel senso che è stato messo in pista un servizio efficiente, competitivo con altri mezzi di trasporto, addirittura con l'aereo, ed ha avuto ed ha un grande successo. Se questo non è avvenuto nel trasporto locale, come è avvenuto? Perché oggi noi diciamo sempre il trasporto ferroviario in Italia è a due città ed è un eufemismo dire questo, è perché non sono state fatte delle scelte di investimento. Scelte di investimento vuol dire evidentemente politiche, e oggi in Italia è un grande male di questo paese, dell'economia di questo paese, è il mancato, non dico sviluppo, il mancato efficientamento, la mancata regia, la mancata strategia, certo, globale sul trasporto. trasporto locale. Sul trasporto locale, grazie. Questo è un dato di fatto del quale non si può non prescindere. Grazie al presidente di Altro Consumo. Prego. L'ultima battuta anche a Orazio Iacono. Ha sentito un po' di stimoli anche da parte dei nostri ascoltatori. Sì, mancanza di strategia politica globale. Trenitalia ha fatto la sua, nel senso che ha investito, ha portato il bilancio in attivo nel corso di 10 anni. Sono cose che già abbiamo ricordato proprio con altri dei vostri interlocutori a questi microfoni. E ci vuole un intervento pesante, una strategia della politica. Lei cosa risponde? Beh, direi di sì, soprattutto l'esperienza che noi abbiamo maturato come gruppo con una società in itinere nel trasporto locale in Germania, il confronto che abbiamo condotto con realtà estere, praticamente ci dice che le politiche di manca efficacia della committenza pubblica, in particolare nel caso specifico da parte delle regioni, di programmare un'offerta adeguata e coerente alla domanda. Quindi fin quanto non si affronta questo tema, facciamo fatica poi a dare risposte concrete ai nostri pendolari. Nel frattempo noi cosa stiamo facendo? Nel nostro piano industriale 2014-2017 abbiamo posto una serie di interventi, tra cui alcune già avviate, per garantire un uso ottimale dell'infrastruttura, in particolare nelle grandi aree metropolitane, quindi eliminando quei residui colli di bottiglia che creano interferenze, che a volte penalizzano appunto i treni, quelli locali. Abbiamo quindi sostanzialmente... Sì, perché tutti gli sforzi che fate, innegabili, documentati da cifre e investimenti, poi vengono annullati nella percezione collettiva da questi disagi sulle reti locali. Grazie Orazio Iacono per aver partecipato a questo contraddittorio scatenato dall'ennesimo, ha precisato, non chiamiamolo incidente, disagio, problema che ieri si è verificato nella stazione centrale di Milano, grande snodo non solo di vacanzieri ma di chi si sposta per andare a lavorare o per raggiungere il luogo in cui studia o svolge le attività quotidiane. E voi vi sposterete poi per questo weekend agostano? Ci andrete in vacanza? C'è un problema di prezzo? Ha ragione chi dice non esiste più la vacanza per gli italiani? O viceversa, questo curioso paese che ci restituisce sempre contraddizioni, ci saranno molti disagi perché strade e autostrade saranno prese d'assalto perché la vacanza è tutt'altro che tramontata. E senza dubbio, se le abitudini sono cambiate, e anche perché ormai non ce lo si può più permettere. Sindaco, buongiorno. Umberto Buratti, pronto? Buongiorno, buongiorno. Lei è il sindaco di Forte dei Marmi. Lei è il sindaco della città balneare, diciamo così, più cara di tutti. Ci si aspettava Capri, Positano, invece è Forte dei Marmi, la città dove pernottare in albergo costa in media 453 euro dal 14 al 17 agosto. È un primato che la stupita intende intervenire? È la fotografia di una scelta invece? Ma io direi che è la situazione di Forte dei Marmi, che ha un'offerta alberghiera dal punto di vista numerico, come alberghi non sono tantissimi, la domanda c'è, la domanda soprattutto poi in questo periodo, ma la domanda di albergo c'è, e quindi è evidente che il prezzo sale. Questa è la realtà dei fatti, anche perché Forte dei Marmi ha mantenuto, sia per ciò che riguarda l'edilizia privata che per quello che riguarda le strutture alberghiere, non abbiamo fatto costruire tantissimo. Quindi lei non è né stupito né sgomento, diciamo, nello scoprire. Prendo atto di una situazione come ormai ci insegnano il mercato, laddove c'è un'offerta che è costante e quindi il prezzo aumenta. La prezzo per camera doppia nella notte tra il 15 e il 16 agosto toccherà in media 592 euro. Ma sa, Forte dei Marmi ha, come le dicevo, tra l'altro diversi alberghi 4-5 stelle, e gli alberghi 4-5 stelle sono quelli che fanno crescere molto il prezzo. Poi magari c'è qualche albergo, questa è una media che è stata fatta, dove ci sono alberghi dove si paga molto molto di più, e alberghi dove... Sì, sì, comunque stiamo parlando di una media decisamente consistente, se si pensa che a Sorrento la media è di 188 euro. È una bella differenza. Decisamente. Salutiamo invece il sindaco, scusi ma c'è tempo solo per una battuta, di Peschici, che sta sul fronte opposto. Buongiorno a Francesco Tavaglione. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sindaco, lei invece si è aggiudicata la palma di cittadina più economica, lì qui abbiamo osservato gli appartamenti. La rende orgoglioso? Beh, insomma, questa è stata una scelta obbligata per noi, pur avendo un territorio di assoluto pregio e di assoluta qualità sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico. Noi stiamo nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, però subiamo un grave ritardo per le infrastrutture, aeroporto, viabilità, porti turistici. E chiaramente questa palma vi porterà molto altro turismo e molti altri guadagni. Approfondiremo questi temi, località più cara, località meno cara, sentiremo le vostre esperienze in agosto da Spunti di Vista. Irene Zerbini vi augura un'ottima giornata. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.